L'Enciclopedia Italiana di Giovanni Treccani, sotto la parola libertà, cita: si può storicamente affermare che nel mondo moderno la vera libertà politica sia stata chiesta dopo la libertà religiosa. Entrambe per un senso più vivo e una coscienza più concreta della libertà morale che l'uomo attinge quando fa il bene. Con questa prima definizione si comprende che con il termine libertà si spazia in ogni ambito esistenziale di un essere umano, sia politico, da polis città, sia religioso, da religio legame con la divinità. Queste due anime, nelle quali spazia la libertà, sono state e sono uno dei temi più dibattuti e sentiti che hanno accompagnato l'uomo facendone storia, al punto che per essa si sono create le più grandi rivoluzioni e impensabili intolleranze, dando anche avvio all'opera dei più grandi pensatori che la storia dell'umanità possa ricordare. Libertà. In nome di essa, molti hanno donato la vita senza riceverne gloria, altri l'hanno tolta, applauditi, molti hanno strenuamente lottato contro il potere, altri hanno fatto di se stessi l'essenza stessa del potere. Alcuni, per diventare liberi dalla potenza della ricchezza, hanno venduto e donato i loro beni ai poveri. Altri hanno cercato inutilmente la libertà nelle ricchezze. In nome della libertà sono stati fondati imperi. Altri, sempre in nome della libertà, li hanno corrosi. Non ci è papa che non abbia posto la libertà come fondamento delle sue affermazioni, e la Chiesa di Roma ha costantemente affermato e difeso la sua piena indipendenza dallo Stato. Questa sua posizione, che dovrebbe favorire la libertà della religione, è contraddetta dal dogma dell'autorità, che si compendia nei due principi della infallibilità e della esclusività, espressa in «fuori della Chiesa non vi è salvezza». La religione cattolica pertanto si pone in un circolo vizioso, è costretta a togliere la libertà se vuole mantenere la propria autorità, oppure a rinunciare alla sua propria autorità se offre libertà. Ne consegue che viviamo in un mondo pieno di contraddizioni e assurdità, con una logica completamente instabile, impossibile da gestire e controllare, inseguendo una bolla immateriale. Tutti vogliamo e inseguiamo affannosamente la libertà, sia politica sia religiosa, apparentemente senza gli strumenti adatti per conseguirla però. E, poiché come dice l'enciclopedia la vera libertà politica è avvenuta dopo la libertà religiosa, va da sé che per prima cosa occorra esaminare la libertà religiosa. Per farlo, è indispensabile prendere seriamente in mano il testo del patto stipulato da Dio con l'uomo, cioè la Bibbia. Perché in essa, cioè nel patto, troviamo più volte ordini e disposizioni in merito alla libertà. Non si tratta di un gesto di devozione religiosa, ma solo di coerenza. Come per ottenere un buon libero traffico stradale, è sufficiente osservare il codice. Così l'uomo, se vuole vivere bene e in libertà, deve osservare il codice della vita. Un codice stabilito dall'autorità suprema, cioè Dio. Se anche ti professi ateo, una cosa è certa. Se non osservi le leggi dell'universo, che tu non hai creato, non puoi vivere e neppure essere libero. Prima delle filosofie dell'età ellenistica, continua l'enciclopedia Treccani, non fu rigorosamente posto il problema del rapporto tra libero arbitrio umano e provvidenza. E specialmente dopo Agostino, l'affermazione energicissima che Dio volle o vuole, ab eterno, tutto ciò che avviene nell'universo, ivi comprese le sorti degli uomini, delle quali le eterne decisioni l'uomo non può chiedere conto, perché il Creatore fa le creature secondo un suo disegno certamente sapientissimo e santo, ma comprensibile solo dalla mente divina che vede i singoli nel tutto, e incomprensibile alla mente umana posta davanti a frammenti del disegno universale e incerta nella costruzione del tutto. Con questa prospettiva Agostino ha concluso che l'uomo non è libero di scegliere il bene, perciò è impossibile. Una visione questa abbracciata sia da Lutero sia da Calvino, come da tutta la riforma protestante. Un punto di partenza ineccepibile, ma che sfocia nella conclusione che l'amore di Dio è selettivo, predestinando alcuni alla salvezza e altri alla perdizione. Conclusione, non condivisa da molti altri teologi. Quindi, a dividere il pensiero protestante è proprio il tema della libertà dell'uomo. Un tema che si ripercuote poi anche nell'ambito dell'ecclesiologia, con il principio dell'indipendenza religiosa della Chiesa dallo Stato, ma, come dicono gli storici, non messa in pratica, perché i riformatori non si sono innalzati all'idea della distinzione assoluta tra queste due società. Forse l'errore di questa conclusione è dovuto all'opinione che si ha della libertà del cristiano. Proprio per questo prenderò in esame le affermazioni bibliche in merito. La verità risaltante per questo tema, come il sole in pieno, mezzogiorno nel cielo terzo, è la grandissima promessa di Gesù a tutti coloro che hanno posto una reale fede salvifica in Lui. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8,36. Di quale libertà stava parlando Gesù, poiché in quel momento sia Lui sia tutti gli ebrei erano sottomessi alla dominazione romana? Gesù stava parlando della vera schiavitù, cioè quell'incapacità a resistere alle inclinazioni della nostra natura umana, chiamata peccato. Sta scritto che chi ha autocontrollo vale più di chi espugna una città. Questo è vero, perché grandi uomini, famosi, forti e potenti, non resistevano a piccoli vizi. Se Gesù ha detto che chi crede in Lui è veramente libero, significa che nel mondo si proclama una certa libertà, si ritiene di avere una certa libertà, mentre in realtà tutti sono schiavi delle loro bizzarre opinioni, della loro distorta religiosità, delle loro manie e superstizioni, della paura degli uomini e della morte. La fede concreta in Cristo è in grado di liberarci dagli speciosi sofismi, da sciocchi terrori e schiocche speranze, da inutili pastoie, per darci una vita piena e abbondante, fruttuosa alla gloria di Dio e per il bene del prossimo. Senza interesse mondano, senza suggestione esterna, senza mire politiche, liberati dall'egoismo, i veri cristiani si affaticano per il regno di Dio, con la libertà di Cristo. Gesù ha fatto la promessa delle promesse, perché a cosa servono i soldi, la salute e ogni altra cosa, se non si possiede la vera libertà? Sarebbe contento un cane se gli fosse dato il cibo più squisito, nel bosco più bello del mondo, attorniato dai suoi padroni, ma legato ad una catena? Anche l'uomo, che vive in un mondo industrializzato, ha le sue catene, che gli impediscono la libertà. Com'è possibile evitare tali legami? È stato dichiarato da Gesù ai giudei con queste parole riportate da Giovanni nel suo Vangelo. 8:30-32. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Il principio espresso da Gesù con questa sua affermazione sfata una idea romantica di tanti cristiani. Una volta posta la fede nel profeta di Nazareth, abbiamo risolto i nostri problemi e siamo automaticamente liberi. Niente di più falso. Gesù ha detto: «Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Credere in Gesù dà al credente la possibilità di diventare libero. Ma per essere libero, egli deve perseverare nella sua parola e nell'ubbidire alla volontà di Cristo che, mediante la trasformazione della mente, si è in grado di comprendere sempre meglio la volontà di Dio, perché la vita cristiana non è composta di ragionamenti a vuoto o di pura filosofia, ma è un cammino di praticità. Quando compi la volontà di Dio senza profonde convinzioni, con una porta aperta a eventuali alternative, mentre metti in pratica il volere di Cristo, ti rendi conto di dove sta la verità e, rassicurato da questa esperienza, conosci la verità, quella che ti rende libero da dubbi e da interrogativi. Prima eri schiavo delle tue convinzioni e dell'opinione degli uomini, ora ti trovi improvvisamente libero di scegliere ciò che è giusto. Sta scritto che la paura degli uomini, Proverbi 29-25, la superbia, Salmo 59-12, gli idoli, cioè le immagini sacre, Salmo 106-3-6, le insidie degli uomini malvagi, Salmo 141-9, il tuo parlare in consulto, Proverbi 6-2, la paura del futuro e della morte, Ecclesiaste 9-12, costituiscono dei lacci, ma, mediante il coraggio di intraprendere la volontà di Dio, scoprirai una libertà a te ignota. Gli apostoli Paolo e Pietro lo hanno espresso in questo modo. Romani 6 e 22. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. 2 Pietro 2, 9. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Galati 5, 1. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. La libertà come autonomia morale dell'uomo e la sua intima dignità sono traguardi che poche persone arrivano a raggiungere. Non per nulla oggi la libertà è considerata come la spiritualità stessa. Sempre l'enciclopedia Treccani aggiunge: non è possibile professare un'etica della libertà senza che essi postuli una metafisica della libertà, il che conferma ciò che ha detto Gesù. La libertà è lui stesso, e solo chi è sotto l'autorità di Cristo è veramente libero. Inutili rimangono i fragori religiosi del nostro secolo. Come ogni medaglia, la verità ha due aspetti, che Paolo mette in evidenza. Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Galati 5:13. È vero che il credente è stato liberato dalla schiavitù degli uomini, come dalla schiavitù dell'osservanza della legge giudaica, ma deve meno, il verbo è all'imperativo, meno osservare ciò che è giusto, vivere per Cristo e il prossimo. Ecco le parole di Paolo a riguardo. 1 Corinzi 9:19. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. 1 Pietro 2:16. Comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. 1 Corinzi 8:9. Badate però che questa vostra libertà non divenga un intoppo per i deboli. 1 Corinzi 10:29-31. Perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Il credente libero fa uso della libertà acquisita come espressione del suo amore e riconoscenza verso Cristo. Se non lo fa, significa che la sua fede non è reale e sincera. Occorre però anche riconoscere che nella famiglia di Dio non sempre vi sono i diritti di libertà. Per comprenderlo bene prendo ancora in prestito un'affermazione dell'enciclopedia Treccani. L'espressione diritti di libertà significa in generale la capacità giuridica di svolgere, senza ostacoli e senza ingerenze estranee, la personalità in tutte le sue forme e direzioni, e di pretendere per tale svolgimento il riconoscimento e la tutela dello Stato. Se questo vale per ciò che è civile, molto di più deve valere nell'ambito religioso. Ogni credente è una nota di Dio, e come le note musicali che formano una sinfonia e altro, non sono tutte uguali, così, e anche dei figli di Dio. Mediante un atto di fede in Gesù, il credente è inserito nel corpo di Cristo, cioè la Chiesa universale, per far parte poi di una Chiesa locale. La Chiesa locale è eterogenea, con bambini, persone anziane, persone istruite e altre, meno. Nulla di speciale, solo che questa diversità a volte rende difficile, se non impossibile, la convivenza. Se poi a condurre la Chiesa vi sono dei giovani o degli inesperti, è facile che meno, per aver meno problemi, meno si richieda un'adesione e una uniformità totalizzante a tutte le direttive. Potrebbe anche essere buono, fino a che non si priva di libertà il singolo credente, ostacolando la sua personalità, non riconoscendo i svariati doni dati da Dio. Cosa pensare? Giacomo dice: parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, Giacomo 2:12, che vuol dire mettere in grado gli altri di trovare la loro libertà al servizio della volontà di Dio e renderli pure capaci di essere esecutori attivi delle regole di vita comunitaria, senza esservi obbligato. Che il dono della libertà umana in Cristo possa risparmiarci da ogni forma di intolleranza, sia civile, sia religiosa. novembre 20121117. Contributo. La libertà di coscienza e il culto di fronte alla Costituente italiana - GDU Giorgio Peiro. Ellero.